fossi io, viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Avevo annunciato che avremmo fatto un passo avanti questa mattina dopo aver trattato per due giorni il tema del corpo che non ci soddisfa perché non in linea con modelli estetici proclamati e conclamati. Questa mattina è ora di parlare di quello che probabilmente è il passo più ardito della contemporaneità, il passo che ci fa compiere nel giro di pochissimi anni decine di migliaia di evoluzioni. L'uomo, per stabilirsi nel suo aspetto psicofisico, così come noi ci vediamo, ci incontriamo e ci relazioniamo, ci ha messo qualche annetto attraverso varie e complicate vicende. L'uomo da una quindicina, diciamo vent'anni a questa parte, però sta maturando al suo interno un'altra folle illusione o un'altra certezza, secondo un atto di fede di matrice laica ma molto condiviso, che quello che il proprio corpo, la propria umanità possa essere riprogettata, possa essere ripensata, o perlomeno non esistano più questi sacri limiti di ciò che viene considerato come ordine naturale che ci definisce, che ci compone, per il quale noi siamo fatti come siamo fatti, abbiamo dei pensieri, delle emozioni, ma soprattutto abbiamo, visto che siamo partiti da una bieca e banalissima analisi, molti mi hanno detto che tema banale, che tema sciocco, dell'aspetto fisico, perché l'aspetto fisico ha una sua importanza, perché l'aspetto fisico riflette comunque delle linee di pensiero, l'aggradimento, il non gradimento di un certo aspetto fisico, l'attenzione comunque alla fisicità rispetto a alcune linee di tensione, linee di pensiero che serpeggiano sotto il sentire comune, il sentire pubblico, e emergono soltanto quando uno si pone il problema. Di fronte allo sconcerto può avervi causato l'inizio di questa mia introduzione, pensate che oggi siamo tutti perfettamente consapevoli, anzi abbiamo sedimentato radicalmente dentro di noi il fatto e la possibilità che il nostro corpo possa essere riprogettato, che la nostra umanità, il nostro sentire, noi stessi possiamo essere anche altrove rispetto al nostro corpo. Il fatto di cronaca più truce, più eclatante di questa mattina è il signore che ha decapitato la moglie perché la vedeva chattare di fronte a un computer. Un atto di belluina gelosia, di immotivato, inspiegabile, ingiustificabile violenza nei confronti di una moglie, ma allo stesso tempo comincia ad essere la sensazione che in realtà alcuni atti che noi abbiamo sempre attribuito semplicemente alla sfera fisica, al sentire, alle emozioni che poi dovevano necessariamente avere una loro risposta nella mappa corporea, in realtà si sposta in un altro luogo. Per quell'uomo il luogo dell'adulterio, il luogo del tradimento era all'interno del microprocessore di quel computer. Assolutamente la donna lo stava tradendo semplicemente perché scriveva delle parole con le sue mani, perché l'emotività di quella donna non era più spostata all'interno di quel corpo, ma apparteneva probabilmente, nella allucinazione dell'assassino, a un altro uomo o ad altri uomini o a molteplici persone che l'avevano rapita, l'avevano carpita, l'avevano portata via in un altro luogo, che non era più il corpo di quella donna. Quindi noi possiamo emigrare facilmente dal nostro corpo, ma possiamo anche, e questo è ormai un dato di fatto assodato e condiviso da tutti, ripensare, rimmaginare, rivolere dare al nostro corpo un aspetto differente. Ho soltanto 21 anni. Ho ancora tempo o sbaglio? Hai ragione. Certo, non è facile raggiungere la perfezione assoluta, ma eliminati i difetti potresti essere davvero una dea. Il rifacimento sintetico del corpo femminile nelle protagoniste della televisione è sfacciato, improvviso, totale. E la devastazione della carne è la vera sfida del nuovo integralismo. E cosa sarei adesso? Una ninfa. Una ninfa. E hai almeno 26 anni, mai usato schermi solari, ma eliminando le borse sotto gli occhi potresti dimostrarne 20. L'appartenenza al rango è segnata non più da tatuaggi tribali o scarnificazioni rituali, ma da zigomi devastati, labbra abnormi, seni a siluro fatti di granito e glutei disegnati con il compasso. Sì, devo ammetterlo, sei carina, Kimberly. Io non voglio essere carina. Voglio essere perfetta. Voglio essere perfetta. Fuori del sogno catodico, però, le mutanti del piccolo schermo tornano ad essere bambole mal riuscite. La carne pendula rivela impietosamente la struttura che la regge. La componente organica mostra la sua estraneità al supporto plastico con cui forzatamente convive. Voglio essere perfetta. Perfetta. 800240024, questo è il primo passaggio, il primo punto di attenzione che vi chiedo. Ci siamo intrattenuti piacevolmente o amaramente o crudelmente, secondo i punti di vista, per un paio di giorni sulle fattezze fisiche, sulle misure estetiche, anatomiche, sulla percezione di quello che noi siamo, di quanto racconti la nostra scatola fisica e organica di noi stessi, e quanto sia difficile risalire la china del gradimento, dell'apprezzamento, della possibilità di relazione, quando noi siamo condizionati da un corpo che non è mai fatto come noi ci aspettiamo che sia, o perlomeno non sempre fatto come noi ci aspettiamo che sia. E da questo corpo molti hanno la pretesa e l'illusione di leggere la nostra interiorità. La macchina che usiamo ogni giorno, che in questo momento è qui accanto a me, che è probabilmente di fronte a voi, è qualcosa che ci permette di astrarci dal nostro corpo, di uscire dal nostro corpo, di rappresentarci in maniera diversa. Lo facciamo tutti noi, ogni volta che scriviamo semplicemente un'email, ogni volta che entriamo in contatto con un'altra persona che non ci vede, o perlomeno non ci percepisce, non sente il nostro odore. Beh, questa è una prima fondamentale operazione di astrazione. Pensate, ci sono stati millenni di fedi religiose, di slanci mistici, di prontuari di corretto comportamento o di ascesi o di esercizio perché l'uomo possa abbandonare il condizionamento dato dal proprio fisico. Beh, una macchina c'è riuscita in pochi decenni, come ahimè la signora miseramente decapitata, abbiamo capito che possiamo essere altro quando passiamo attraverso una macchina. Le belle della TV, se incrociate al mercato, sembrano cadaveri in disfacimento. Inquadrate da vicino, senza telecamera o luci da studio, quasi non le riconosciamo. È il momento della vendetta, in cui la natura ristabilisce giustizia, in cui le donne comuni possono guardare con il giusto disprezzo le idee cadute dell'Olimpo televisivo. Questa è una realtà sotto gli occhi di tutti, comincia a concretizzarsi un modello estetico diverso da quello che può essere determinato, non so, da incroci di popolazioni diverse, da alimentazioni, da circostanze climatiche. È il gruppo dei mutanti del mondo dello spettacolo, dello star system, che cominciano a proporsi e con delle caratteristiche fisiche che sono abnormi. Non lo dico con un senso di presa di posizione morale o etica, di dire Dio mio cosa sta succedendo, perché sono così, è un dato di fatto. Ieri sera in un viaggio in treno di ritorno verso Roma ho diviso lo scompartimento con dei medici che erano stati a un convegno, tutti melogmani, quindi mi sono molto gratificato, tra cui c'erano anche un paio di chirurghi estetici, e uno mi diceva, soprattutto specializzato in chirurgia del volto, come io penso che oggi le mie clienti, lo dico mio malgrado, abbiano una percezione distorta di se stesse quando si guardano, un po' come le anoressiche che si vedono grasse. Oggi non capisco perché le donne si vedano belle con dei palloncini messi al posto degli zigomi, con delle labbra a canotto, però mi chiedono questo, non fanno altro chiedermi questo. Quindi la percezione proprio che abbiamo di noi sta cambiando e sta virando verso un profondo innesto con qualcosa che non appartiene alla natura o non appartiene al mondo organico. Questo non soltanto da un punto di vista estetico, ma anche da un punto di vista funzionale. 21 anni fa, un ragazzo di nome Oscar nasce affetto da una malattia rara. I suoi piedi sono deformi. I genitori si trovano di fronte a una terribile scelta: vederlo crescere incapace di camminare o procedere all'amputazione nella speranza di un futuro migliore grazie a delle protesi. Pensare di tagliargli i piedi e gettarli nella spazzatura non è stato affatto piacevole. Invece, non solo Oscar Pistorius sarà in grado di camminare, ma diventerà anche uno degli atleti più veloci della storia e di certo, fino ad oggi, più veloce di qualunque altro corridore disabile. Ma tutto questo ancora non gli basta. Vuole diventare l'uomo più veloce del mondo, con o senza gambe, e partecipare alle Olimpiadi. Ma il suo sogno è a rischio. C'è chi dice che le Paralimpiadi esistono... È un classico delle nostre discussioni, Oscar Pistorius, l'uomo che ha sdoganato il senso della protesi, non più intesa come un presidio vergognoso legato a coloro che perdono qualcosa, la loro compattezza fisica, quindi dell'ordine naturale, della geometria celeste che si riflette sull'essere umano, ma l'uomo che ha capito e compreso, ha fatto la protesi non tanto un oggetto di compensazione di un difetto, di una mancanza naturale, ma un oggetto di potenziamento delle caratteristiche umane. Le ho trovate un po' troppo morbide, mentre vorrei avessero una rigidità compresa fra i 7,2 e i 3,5. Dietro un miglioramento di un centesimo di secondo c'è un'incredibile quantità di lavoro e i tecnici si sono davvero dati molto da fare per ottenere questo centesimo. Si tratta solo di una frazione di secondo, ma dietro a Oscar c'è un'intera squadra di ingegneri che non ha nulla da invidiare a un team di Formula 1. E Pistorius non può sfuggire al sospetto che abbia un vantaggio tecnologico rispetto ai corridori normodotati. L'idea che Oscar sia avvantaggiato da questi strumenti si basa su un equivoco. Nessuna legge fisica dice che sia possibile ottenere più energia di quanta effettivamente venga impressa. Non esistono regali in questo senso. Anzi, l'uso delle protesi rappresenta più una possibilità di perdere energia che non il contrario. E di certo, secondo un processo che non avviene con delle gambe biologiche. Ho sotto mano un articolo preso da una rivista di musica, Rolling Stone, che parla di uno scienziato, uno di questi guru detti o profeti del futuro, teorici della singolarità, cioè di questa possibilità che il progresso scientifico vada oltre le possibilità che ha l'essere umano di capirlo, di comprenderlo o di vederne i limiti. Si chiama Ray Kurzweil, ha scritto proprio un libro sulla singolarità. Lui sta portando avanti un esperimento, sembra folle, quello di far risuscitare suo padre. Lui, secondo lui, è una teorizzazione naturalmente, dato che nel XXI secolo sperimenteremo non un secolo di progresso scientifico, ma 20.000 anni, è convinto che attraverso alcune tecniche biogenetiche, attraverso le nanotecnologie, attraverso lo studio approfondito del DNA, attraverso l'uso esasperato delle cellule staminali, potrà far rinascere suo padre, risorgere il padre morto, semplicemente prendendo del DNA dalla salma del padre, ormai sepolto penso da qualche anno, recuperando tutti i ricordi che lui ha dentro di sé, nei suoi meccanismi neurali del padre, delle persone che l'hanno conosciuto, e tutto questo in qualche maniera dovrebbe ricostruire e ridare vita a qualcosa che non sarà mai suo padre, ma avrà molte delle caratteristiche del padre defunto. Le neuroprotesi sono dispositivi artificiali in grado di sostituire o migliorare specifiche funzioni del nostro sistema nervoso. La neuroprotesi più diffusa nel mondo è l'impianto cocleare, detto anche orecchio bionico. Si stima che circa 100.000 impianti cocleari vengano utilizzati nel mondo. L'orecchio bionico è un dispositivo impiantabile che fornisce al paziente una sensazione acustica per pazienti ipoudenti o non udenti. Diversamente dagli ausili per l'udito, un impianto cocleare non amplifica il suono, ma stimola direttamente il nervo acustico della coclea, utilizzando impulsi elettrici. Per fare questo, un impianto cocleare è composto da un microfono, un microprocessore per l'elaborazione del suono e un trasmettitore. Lentamente, nell'excursus che stiamo facendo velocemente dell'evoluzione dell'uomo nel considerare la propria natura, la propria carne come l'unico contenitore possibile per la propria coscienza, abbiamo lentamente osservato che da una parte la riprogettazione del proprio modello estetico attraverso la chirurgia plastica, d'altra parte le protesi che non hanno più questo significato di oggetti per supplire a mutilati del grosso fallo e la grossa mancanza di un apparato naturale, fino agli apparati sostitutivi di alcuni apparati organici con una funzione senz'altro amplificata. L'uomo lentamente sta scomponendo, spezzettando il proprio corpo e sostituendolo con delle parti più efficienti. Questo era l'antico sogno e l'antico miraggio degli artisti di body art, ma di semplicemente qualche decennio fa, oggi sta diventando una realtà. L'uomo si sta riprogettando anche nel suo aspetto funzionale, perché probabilmente considera che per la velocizzazione delle relazioni, per la sovrapposizione dei pensieri, per la contemporaneità e simultaneità in cui noi dobbiamo prendere decisioni e seguire alcune operazioni, oggi per come siamo fatti siamo vecchi, quindi l'evoluzione che procede così lentamente non ci serve più. E come dice appunto il guru americano, in un secolo faremo 20.000 anni di evoluzione. Nel campo delle protesi motorie, le neuroprotesi hanno come obiettivo la restituzione delle funzioni associate al movimento volontario, che possono essere compromesse per diverse patologie. Attraverso l'impianto di microelettrodi sullo scalpo, è ad oggi possibile effettuare semplici funzioni cognitive, quali muovere un cursore sullo schermo o dare risposte binarie specifiche. 800 24 0024, mi rendo conto che il tema può sembrare lontano dall'esperienza personale di chi ascolta, è difficile da comprendere, ma sto seguendo quella che sembra essere una affermazione, una costituzione di una nuova fede, di un nuovo credo, di una nuova maniera di concepire l'esistenza, che in sé ha tutte le caratteristiche e tutti gli schemi di una rappresentazione quasi di un culto religioso, perché è sostitutivo della religione, pone l'uomo al centro della possibilità di ricostruzione, riprogettamento, di ricreazione di una nuova umanità. Sembra assomigliare tanto all'antica e maledetta leggenda dei costruttori di golem, cioè di costruttori di esseri artificiali con la terrificante pretesa di compiere quello che aveva compiuto la creazione divina. Beh, oggi che altro sono se non costruttori di golem gli scienziati o coloro che immaginano e idealizzano un mondo in cui l'uomo può tranquillamente porsi anche al di fuori del proprio corpo. Alcuni mesi fa, in un ateneo della Pennsylvania, ha fatto notizia un esperimento condotto su una scimmia basato sulle interfacce neurali, le Brain-Machine Interface, con cui è possibile trasformare i segnali del cervello in azioni. La scimmia è stata addestrata per alcuni giorni a comandare col pensiero un braccio robotico fissato sulla spalla, sfruttando i segnali elettrici prodotti nelle diverse aree del cervello. In questo modo, una mano robot è stata guidata dal desiderio di cibo nella mente dell'animale senza che questo muovesse un dito. Ho al telefono Stefano Moriggi, filosofo della scienza, che spesso chiamo a supporto, integrazione e illuminata condivisione di alcune follie che sottopongo al mio pubblico. Stefano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ecco, io ho fatto un rapido excursus, visto che mi sembrava limitativo parlare dell'aspetto umano semplicemente limitandosi all'analisi della cozza, come abbiamo fatto per due giorni, cercando di dimostrare che comunque esiste, serpeggio, non è detto che debba essere condiviso, un pensiero diffuso per cui nel mondo non esisteranno più cozze, ma esisterà soltanto quello che noi vorremmo che esista. Trovi che ci siano fondamenta reali e concrete di questo pensiero, o soltanto una follia elaborata questa mattina? Ma sai, io penso che quella che tu hai delineato come una sorta di fenomenologia della cozza sia molto pertinente con la trasfigurazione del corpo propria della tecnologia. La tecnologia risponde nei modi di un potenziamento, di un sostentamento a un'inadeguatezza fisica rispetto all'ambiente, anche appunto nel modo del potenziamento del nostro corpo, ma non è mai solo quella, è anche una trasfigurazione concettuale, è anche una capacità di rileggere il corpo nei suoi possibili significati. La tecnologia è uno strumento che ci consente di ridare costantemente significato al nostro corpo. C'è un'evoluzione dell'immaginazione all'interno della tecnologia che non andrebbe sottovalutata e che detta la grammatica dei nuovi valori nel bene e nel male in cui il corpo va inesorabilmente iscrivendosi. Ecco, la riflessione con cui lascio gli ascoltatori prima di risentirmi dopo la pausa per le notizie della borsa con Stefano Moriggi e con Gianni Vattimo che ci raggiunge raggiungerà al telefono, è proprio questo. Riflettete sull'episodio cruento di cronaca che vi ho citato poco fa. Una signora, probabilmente dall'aspetto non particolarmente avvenente, non era certo una vamp, si vede in tutti i giornali, era uscita dal suo corpo e quindi si riproponeva, al di là della sua condizione fisica, in un ambiente amoroso, relazionale, emotivamente forte, che era quello dell'incontro al di fuori del corpo con altre persone. Il mondo degli uomini reagisce nella stessa antica, atavica maniera con cui ha sempre reagito quando una moglie scappa dal controllo del marito, le taglia la testa. Mi rendo conto, non è facilissimo di punto in bianco passare dal divertente sproloquio sulle misure estetiche della cozza al pensare, all'immaginare che in fondo siamo già tutti belli che pronti ad uscire da qualsiasi cozzaggine ci definisca o ci discrimini o ci renda diversi dagli altri, semplicemente portando il progetto di quello che noi vorremmo essere, perlomeno collocando noi in un luogo diverso rispetto al corpo che ci ha sempre contenuto. Andrew Martin, si faccia avanti, prego. Dunque, signor Martin, lei vorrebbe che noi ratificassimo un atto che dichiari che lei è un essere umano? Sì, più precisamente che sono idoneo a sposare un altro essere umano. Dobbiamo ammettere il fatto innegabile che per quanto lei possa essere simile a un essere umano, non fa parte del bacino genetico umano. Lei ne è totalmente fuori. Lei è qualcosa di diverso, qualcosa di artificiale. Signore, e quelle persone reali che sguazzano nel bacino genetico, ma che hanno il corpo pieno di protesi, molte delle quali inventate da me? Lei stesso, signore, ha uno dei miei reni, se non sbaglio. Lei non è in qualche modo artificiale, almeno in parte? Sì, in parte sì. Beh, allora io sono umano in parte. Quale parte, Andrew? In questa, signore. E qui? Questo è il momento cruciale in un film, in una narrazione moderna, di moderna mitologia, in cui l'uomo, la macchina che diventa uomo, l'uomo bicentenario, nasce come robot, un semplice sussidio domestico, anche lui un golem, un inserviente in una famiglia, lentamente attraverso vari upgrade che egli stesso fa, la macchina riprogetta continuamente la sua evoluzione, riesce ad avere un aspetto in tutto e per tutto simile a quello degli umani, quindi si pone di fronte, dopo centinaia di anni che ha compiuto essendo una macchina, quindi non conoscendo la morte come limite dell'umanità, si pone di fronte al tribunale degli uomini dicendo: prendete, sono dei vostri anch'io, vedete, adesso sono fatto come voi. E alla perplessità del giudice umano di ammetterlo nel consesso degli uomini, dice: ma come, non te ne rendi conto che anche dentro di te c'è tanti pezzi di macchina che io stesso ho progettato? Quindi siamo entrambi degli esseri che sono mossi verso un comune punto d'incontro. Un uomo che si è sempre più macchinizzato e una macchina sempre più umanizzata si trovano a un punto d'incontro comune. Buongiorno Gianni Vattimo. Buongiorno a voi, io spero di non... purtroppo non ho protesi, non ho niente. Aspetti a dirlo, c'è sempre tempo. Magari avrò la voce un po' rocca, va bene. Dunque Gianni Vattimo, sarei ipocrita se non lo dicessi, tutti questa mattina vorrebbero parlare con lei per l'annuncio di sue scelte politiche, a me non importa nulla, voglio semplicemente sentirla come filosofo del pensiero debole. Lo dico subito come premessa, perché lei oggi riempie le pagine dei giornali. A me fa comodo ogni tanto comparire in pubblico in questo periodo perché la gente si ricordi che esisto, ma non voglio trasformare questa trasmissione in un'altra cosa. Beh, lei si sta appoggiando a una protesi, vede, se lei subordina la sua esistenza al fatto che una macchina di riproduzione del reale come la radio parli di lei, quindi in questo momento si affida alla protesi radiofonica per esistere, quindi è in linea col nostro discorso. Sì, sono in linea, appunto mi stavo ascoltando e mi stavo domandando che cosa distingue una protesi da un clone, cioè o comunque da una riproduzione puramente artificiale di tutto me. Allora io molto tradizionalmente continuo a considerare che le protesi sono quelle che io uso e quindi per esempio accetto di conversare con voi sperando che questo mi serva per le elezioni. Ma se dice così devo segarla immediatamente con la motosega. No, certo, ma io non voglio, ma lo dico perché se penso che cos'è una protesi, la penso sempre come uno strumento e gli strumenti sono nelle mani di chi li adopera in generale. Se lo strumento diventa un autonomo, totalmente autonomo, non è più uno strumento, quindi non è più una protesi e questo crea dei problemi anche filosofici, soprattutto uno si domanda se e come sarà possibile. Prendo per esempio la legge della prima legge della robotica, se mi ricordo bene, sì, di certo. Asimov. Vabbè, il robot come prima cosa non deve fare del male all'essere umano, il che vuol dire che c'è sempre ancora una gerarchia lì, cioè il robot è uno strumento in qualche modo. Però è abbastanza datata anche la legge della robotica, visto che ormai sì, certo, purtroppo stiamo arrivando a un punto di incontro, ma io parlo per grossi paradossi, però è giusto anche affrontare la realtà in questi termini, poi un filosofo dovrebbe insegnarmelo. Arriviamo a un punto in cui comincia a essere difficile la definizione fra artefatto inteso come strumento tecnologico e artefatto inteso come essere umano che riprogetta se stesso. Questo lo dice anche Attali. Noi stiamo diventando degli artefatti a tutti i sensi. Sì, ma allora nel caso di un problema di relazione con un robot del tutto simile a me, che mi risponde quando gli faccio delle domande, oppure che gioca a scacchi, le solite, io non so giocare a scacchi neanche come essere naturale, spero che potrei impararlo. No, voglio dire, se il robot è questo, perché non considerarlo come un marziano, cioè un essere di un altro pianeta che è in tutto simile a noi e che dobbiamo prendere sul serio come un interlocutore finché non appare qualche cosa di stravagante, no? Non so, se è davvero simile a me, anche se è stato costruito da qualcuno, e naturalmente il problema è se è stato costruito da qualcuno per farmi del male, io subito sparo, per esempio. Ma al di là di questo, se si è autocostruito piano piano con i pezzi che io gli ho fornito, diventa poi come un altro essere che non è nato come me, ma per il resto se mi somiglia, non fa schifo, non mi morde, mi risponde, eccetera, devo allargare il concetto di umanità, come se incontrassi gli omini verdi di cui si parla che come marziani. Quello che i profeti di questa era, che sembra così lontana, ma in realtà dà già i primi sintomi di esistenza in comportamenti perfettamente normali, la facilità con cui le persone si sostituiscono pezzi del proprio corpo per stare meglio, per vivere meglio, per essere più belli, in realtà potrebbe a una non così drastica definizione di differenza fra noi e la macchina. Cioè, la macchina saremo noi saremo dentro la macchina, noi e la macchina più o meno saremo la stessa cosa. Beh, in qualche modo sì, ma è, come dire, la parola macchina che qui deve essere ridefinita, perché quando una macchina si comporta esattamente come un essere umano, tranne nell'origine, tranne nel fatto che non è nato alla clinica ostetrica dell'università, ma è stato fabbricato in uno stabilimento, e poi per tutto il resto è come me, io non so se dovrei chiedergli il certificato di nascita. Voglio anche lì, pensi un po' a tutti i problemi delle nazionalità: se uno nasce in un paese è naturalmente cittadino di quel paese, se invece viene dall'estero, se è un extracomunitario, ho bisogno di un permesso di soggiorno. Cioè, è tutto un meccanismo di questo genere. Io sono convinto che l'origine importa poco, importano i comportamenti e la possibilità di interrelazione. Sentiamo, professore, Stefano Morigi. Stefano, mi sembra, da quello che dice il tuo collega in quanto filosofo, professor Vattimo, che il concetto della macchina ancora sia talmente forte non poter essere indebolito e diluito in qualcosa che ha una sua evoluzione. Ma sì, forse potremmo spingerci ancora un po' più in là. In realtà la macchina si distingue da noi perché non nasce come noi, ma non ci vorrà molto poco dal giorno in cui saremo noi a poter nascere come le macchine, nel modo di una riproduzione seriale come certa. Beh, scusami già Stefano, già il fatto che un numero altissimo di donne partoriscano con un parto cesareo, quindi con un parto determinato nel giorno, uccide tutte le metafisiche letture di predestinazione a seconda del giorno, del mese, l'anno e l'ora in cui una persona nasce. Esatto, e poi c'è un altro aspetto interessante, a mio parere, in quello che diceva adesso Vattimo, è che mi piacerebbe esasperare per provocare in qualche senso la discussione, cioè il fatto che in realtà il riconoscimento delle macchine nella loro dignità e quindi nell'eventuale riconoscimento dei loro diritti potrà davvero cominciare quando saranno insubordinate, non finché rimarranno subordinate, cioè quando ci sarà l'effettivo rischio che potranno cominciare a mordermi, a farmi del male, perché questo è il fondamento del diritto. Tu guarda che in Italia Stefano, stanno già chiedendo di fare un censimento delle protesi mammare. Fare un censimento significa determinare un'identità di una protesi mammare, sembra paradossale ma è così. Sì, ma è il punto, a mio parere, centrale, è che proprio nel momento in cui le macchine avranno l'autonomia di ribellarsi alla sudditanza degli uomini, in quel momento si porrà veramente il diritto di un riconoscimento della macchina in quanto soggetto. Quindi, come avviene nella saga di Matrix, gli uomini e le macchine, dopo una guerra epocale, dovranno fare un patto di pacifica convivenza tra loro. Un nuovo rifondamento del diritto sarà necessario. Professor Vattimo, su questa ultima grande battaglia fra uomini e macchine? Beh, io sono d'accordo che anche tra gli umani, però non è poi tanto diverso, nel senso che gli umani si mettono d'accordo, pensiamo al contratto sociale come lo immagina Hobbes, prima lottano tutti contro tutti, poi cominciano, credo che passino attraverso una lotta tra gruppi, e poi i gruppi però costituiscono già un embrione di società in cui ci si accorda. Quindi se le macchine, insomma, è vero, la libertà non si dimostra teoricamente, si esercita praticamente conquistandosi, vuol dire anche ribellandosi. Quindi è vero quello che dice Morigi, il giorno che le macchine vorranno rivendicare i loro diritti diventano soggetto di diritti e anche soggetto di diritto, cioè diventano quelli con cui ci possiamo mettere d'accordo. Però naturalmente cosa c'è di, come dire, di rabbrividente nella parola macchina? C'è che noi li pensiamo sempre come se fossero dei pezzi di ferro che ci vengono, cioè, contro cui urtiamo, sono più pesanti di... se riescono a riprodursi esattamente comportandosi come noi, diventeranno solo gli uomini verdi, come i neri quando i bianchi li hanno scoperti, o viceversa, insomma. Sì, ma come accade spesso anche nel mondo degli uomini, le macchine saranno sempre meno di ferro, assomiglieranno sempre più a quello che noi chiamiamo, con un termine piuttosto vetusto, carne, e quello che noi abbiamo sempre considerato come carne, che ci sta attaccato alle ossa, sta sempre più cambiando e diventando di altra materia. Grazie professor Vattimo. Melog 2.0. Questa è Zora, addestrata per un corpo speciale di eliminazione extramondo. Sai, la bella e la bestia, è tutte e due. Il quarto lavoro in pelle è Pris, modello base di piacere. Un articolo standard per i circoli militari nelle colonie spaziali. Progettati come copie degli esseri umani in ogni senso, fatta eccezione per le emozioni. Ma i progettisti stimarono che dopo qualche anno potevano sviluppare reazioni emotive proprie. Odio, amore, paura, rabbia, invidia. E li dotarono di un dispositivo limitante. Cioè, dire? 4 anni di vita. Questo è l'esempio più classico, tratto dal film di Blade Runner, dei progetti in carne, degli uomini che costruiscono gli automi, e gli automi spesso richiedono la loro autonomia e quindi vorrebbero essere anche loro come gli uomini. E quindi, come diceva Stefano Morigi nella parte precedente di questa puntata, bisognerà cominciare a considerare i diritti delle macchine, perché le macchine assomiglieranno sempre di più a noi stessi, saranno sempre metafore pensanti e sempre più simili a quello che noi siamo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Esattamente qual è il suo mestiere? Mi occupo di Brain Computer Interface, BCI. Sono delle tecniche tramite elettroencefalografia per entrare in relazione con il computer, nel senso è una branca nuova di ingegneria. Io sono un psicologo pacifico, perché sono a metà strada tra l'ingegnere e lo psicologo. Ma è interessante, perché mi sembra, se posso tradurlo in un termine comprensibile, è guidare le macchine attraverso il cervello, non più attraverso una tastiera o un mouse. Esatto, esattamente questo, nel senso è una protesi nel senso proprio del termine, cioè perché limitare a utilizzare le forchette, il coltello, la penna come estensione? Possiamo usare anche il computer e come mezzo di usare il nostro pensiero. Quindi diciamo BCI è nato per aiutare situazioni di disabilità, nel senso pensiamo per anzianti tetraplegici piuttosto. Sì, ho visto un progetto fatto in Italia, non so se lei fa parte di quel progetto, di una carrozzina che appunto si pilota attraverso un'interfaccia cerebrale. Ce ne sono vari, sì, ne ho visto. diverse altre, c'è un altro esperimento molto interessante in Australia, piuttosto che, sì, sono vari. Diciamo. Ecco, per spiegarlo agli ascoltatori, cosa si lavora sugli impulsi elettrici che muovono i processi neurali? Come funziona? No, assolutamente no. Diciamo, ci sono vari approcci, come sia soft che hard. Nel senso, gli hard sono quelle che ne stavate parlando prima, mi sembra, che sono le neuroprotesi, ovvero impiantare degli elettrodi piuttosto che degli altri dispositivi e farli entrare in connessione proprio a livello molecolare con i neuroni. Viceversa, altri approcci che sono molto più soft utilizzano l'elettroencefalogramma, che è uno strumento abbastanza, diciamo, conosciuto. Spesso gente fa dell'elettroencefalogramma agli ospedali e tramite la lettura delle onde cerebrali, tramite il mappaggio, quindi l'utilizzo di reti neurali artificiali, in questo caso degli algoritmi particolari, si riesce a stabilire come e quando una persona pensa, ad esempio, andare a destra, a sinistra, andare in alto e in basso, piuttosto che si riesce a dettare al computer tramite delle altre tecniche di elaborazione del segnale, che adesso non vi vorrei annoiare perché sono un po'... No, ma entreremo... Io penso che faremo una puntata più specifica su questo. Allora, mi dica soltanto una cosa. Fino a che punto è realtà e quando poi cominciamo a lambire quello che ancora è il dominio della fantascienza, che sarà sempre più vicino alla nostra realtà? Guardi, è abbastanza realtà, nel senso, adesso si riescono a dettare al computer intorno alle 4-5 lettere al minuto. Questi sono dati di fatto nei laboratori di ricerca. Ovviamente c'è un gap molto grosso, che è la barriera all'entrata dell'attrezzatura, perché sono attrezzature che costano ancora un po' abbastanza, ma la tecnologia fortunatamente va veloce. Quindi, diciamo, quello su cui mi sto occupando io, dato che sono uno psicologo, non sono un ingegnere né un bioingegnere né altre cose, stiamo cercando nel nostro laboratorio di aiutare le persone a potenziare le capacità cognitive, quindi non soltanto anche i normodotati potrebbero, le nostre speranze assolutamente sono... A me affascina anche il fatto che attraverso i supporti per le persone che hanno degli handicap poi si arrivi a trovare delle protesi efficienti per tutti. Ma come, non so, si iniziò a decifrare alcune lettere della stella di Rosetta, poi si sono appresi tutti gli alfabeti possibili di popolazioni passate. Alla stessa maniera, cominciando a cogliere alcuni passaggi del nostro cervello, ogni nostro pensiero diventerà decifrabile e leggibile da una macchina. Oddio, non è proprio così semplice, nel senso che... si fanno cose molto semplici, perché ancora il nostro cervello per noi è un gran punto interrogativo, anche se la scienza sta facendo passi da giganti, ma dobbiamo cercare sempre di immaginarci che abbiamo tanti neuroni nel cervello quante sono le stelle nell'universo, quindi è una cosa abbastanza è un sistema più complesso che conosciamo, quindi siamo molto ignoranti su quello che avviene effettivamente nel nostro cervello e come effettivamente pensiamo. Uno dei grandi temi attuali nelle neuroscienze è cos'è la coscienza e cos'è la non coscienza, visto da un punto di vista, diciamo... Senta Marco, io mi interrompo con lei perché il suo discorso è interessante, l'avremo nuovamente in trasmissione, anche perché mi scrive Marco da Facebook, mi dice che lei fa lo stesso lavoro di Susan Calvin, la robopsicologa di Asimov. Edoardo. Sì, buongiorno. Velocemente. Edoardo. Sì. Senta, io volevo intervenire per quanto riguarda l'argomento, ossia volevo dire solamente che certe tecnologie si raggiungeranno, ma bisogna prima di tutto cambiare l'idea, il senso delle cose, ossia il modo di pensare. Noi siamo abituati a pensare a un robot come una macchina con delle pompe e le solite cose, no? Tutte cose meccaniche. Bisogna iniziare a pensare un po' anche alla biotecnologia, ossia un robot che possa essere fatto anche di cellule. Di cellule che si trasformano, che imparano dall'esperienza. Esattamente, esattamente quello che di cui parlavamo col professor Vattimo, che ancora... Pensare, sì, c'è un'idea arcaica, come popolazioni che non hanno raggiunto il nostro livello di civilizzazione vedevano lo straniero e il selvaggio come un essere bruto, totalmente differente, fatto di un'altra materia rispetto a noi. Addirittura gli indios dell'America non avevano l'anima, ci furono discussioni lunghissime sul fatto che potessero avere o no la dignità degli animali, e poi abbiamo capito che erano esseri umani come noi. Anche per le macchine avverrà questa deriva. Stefano Morigi, soltanto una battuta in conclusione, poi riprenderemo questo argomento. Certo, la preziosa testimonianza del psicologo di prima è un'indicazione fondamentale, cioè attraverso la robotica medica noi capiamo che dobbiamo cambiare l'idea di macchina che abbiamo in testa. La macchina è una simulazione di una complessità che racconta la libertà dell'essere umano. Quanto più riuscirà a riprodurre questa complessità, tanto più riprodurrà la nostra capacità di essere liberi e quindi la nostra capacità di essere individui. Grazie mille Stefano Morigi, abbiamo concluso questa trasmissione. Ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni, ma l'argomento vedo che è molto interessante, quindi non lo lasceremo di certo all'oblio. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.